ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Lo chiamavano Mare Nostrum, ma di chi è oggi il Mediterraneo? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The navies of Turkey and Greece are both at sea, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis are blaming each other for the worsening relations. Erdogan is using his aggressive rhetorics, but at the same time he is relying on international diplomacy. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Roberta Frisani. I numeri di Nessun Luogo, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo sui social, la pagina Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Cercateci anche su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Il tema di quest'oggi è bello tosto, vi prometto una lunga navigazione nelle acque del Mar Mediterraneo. Complice che cosa? Beh, la recente attualità ci ha raccontato e ci ha restituito una Turchia e una Grecia ai ferri corti, soprattutto per quelle che sono le zone esclusive economiche di pertinenza, i giacimenti di gas e più in generale gli appetiti geopolitici proprio su quello specchio di mare. La strettissima attualità invece ci consegna il summit di quest'oggi ad Ajaccio in Corsica, il MED7 presieduto da Emmanuel Macron, che ha lanciato un messaggio molto forte ad Ankara e di cui naturalmente vi daremo conto. Allargheremo lo sguardo, metteremo il grand'angolo, come amiamo dire, per cercare di capire quali sono gli attori e che interessi ci sono nel Mar Mediterraneo, e per poi chiudere con una menzione evidentemente sul ruolo dell'Italia. Questo è il tema di quest'oggi, 349-238-6666. Peraltro credo che dovremmo istituire un premio per l'ascoltatore dal polpastrello più veloce, perché è già arrivato un messaggio perentorio e anche piuttosto tranchant. Non vi anticipo nulla, ve ne darò conto tra pochissimo, prima però sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci costringe ancora una volta a parlare di Grecia, in particolare torniamo sull'isola di Lesbo. Migliaia di rifugiati, intere famiglie, tantissimi anche i minori non accompagnati, hanno dormito per la seconda notte all'adiaccio, sui bordi delle strade, i parcheggi dei supermercati, nei campi, accampamenti improvvisati un po' su tutta l'isola di Lesbo. Ricorderete, abbiamo raccontato l'incendio divampato tra l'8 e il 9 settembre che ha devastato completamente quel centro di accoglienza che era stato concepito alcuni anni fa per massimo 3.000 persone ed era affollato da 12.700 migranti. Intanto, come raccontavamo ieri, Mitsotakis ha dichiarato lo stato di emergenza nell'isola per 4 mesi, il che vuol dire un celere invio di forze di sicurezza, di elicotteri e di tutta la macchina del soccorso che cercherà di lenire la fragilità di queste migliaia e migliaia di persone. Molti di questi lamentano la perdita di beni, ma anche l'assenza di cibo e acqua, e sostanzialmente Lesbo, almeno la porzione di Lesbo che è stata riservata tra virgolette ai migranti, è in preda a una vera e propria crisi umanitaria. Il Ministero dell'Interno, anzi dell'Immigrazione, ha garantito che verranno prese tutte le misure per dare la necessaria accoglienza, e intanto però Atene ha dichiarato che ha inviato una nave per accogliere alcune centinaia di persone prima dell'ispezione della vicepresidente della Commissione Europea Margaritis Schinas. Perché? Perché l'Europa si è fatta sentire, lo abbiamo raccontato ieri, qualcuno dirà forse un po' tardivamente, ma è evidente che quella bomba orologeria che è esplosa puntualmente sta facendo venire qualche mal di pancia anche a Bruxelles. Nel frattempo è ancora mistero su quelle che sono le cause dell'incendio. Ieri, senza stabilire un nesso di causa-effetto, per carità, però raccontavamo, grazie ai nostri testimoni proprio sull'isola, come vi fosse grande e profonda frustrazione da parte di tanti migranti rinchiusi chiusi lì ormai da mesi, alcuni addirittura da anni, 35 positivi al Covid-19 e sostanzialmente l'intero campo praticamente messo in quarantena. È presto per fare illazioni a nostro modestissimo parere, però non appena l'autorità giudiziaria ellenica ci racconterà, ieri vi abbiamo raccontato anche la fatica di attingere a fonti primarie, allora saremo qui naturalmente a darvene conto. E se non fosse che c'è di mezzo una tragedia, ci sarebbe da sorridere molto molto amaramente, perché questa mattina un gigantesco incendio è divampato nel porto di Beirut. Sembra non esserci tregua per la capitale libanese. Ancora una volta il porto sconvolto da quella gigantesca esplosione dovuta a quel deposito di nitrato d'ammonio. Stiamo parlando di poco più di un mese fa, quelle tonnellate di sostanza altamente instabile hanno prodotto una deflagrazione che ha portato a 190 morti, la distruzione di buona parte di tutto l'abitato vicino al porto. Ecco, adesso scoppia anche un incendio. È evidente che c'è qualcosina che non va nella gestione del porto. Il porto di Beirut è un nodo fondamentale, molto spesso utilizzato anche per traffici illeciti. Hezbollah ci mette le mani sopra, ci ha messo le mani sopra da tempo. È stranissimo per noi continuare a raccontare il Libano, che sembra vivere una crisi dopo l'altra e ogni volta diverse, come se si aggiungessero tasselli sempre neri su quel mosaico che una volta invece era colorato e faceva sperare, era diversificato, era multiforme, faceva sperare in un Medio Oriente diverso, pacifico, in cui tante anime potessero convivere. Si complica un altro dossier, che è quello dei due pescherecci italiani d'Antartide e il Medinea, lo ricordate, quelli sequestrati dalla Guardia Costiera Libica, che fa capo al Parlamento di Tobruk, la Libia quella di Saleh, quella del generale Khalifa Haftar, ormai evanescente, quasi evaporato. Questo perché alcuni account social legati a militari vicini al generale sostengono che il vero obiettivo dei libici sia la liberazione di quattro trafficanti condannati in Cassazione a 30 anni di carcere per la morte di 49 migranti. Era la strage di Ferragosto, quella avvenuta nel 2015. La richiesta riguarderebbe questi quattro uomini di 24, 23, 25 e ancora 23 anni incarcerati per aver contribuito alla morte dei migranti con calci, bastonate e cinghiate. Ora, al di là della cronaca e di questa indiscrezione che arriva dai social, prendiamo con le pinze tutto quello che arriva dal teatro libico, soprattutto perché spesso è rivestito di propaganda. È evidente che se vi fosse anche un minimo margine di verità in questa trattativa, la trattativa per il rilascio dei 18 marittimi, 18 pescatori di Mazara del Vallo, prende un tono e un livello politico altissimo. Questo è evidente. La sensazione da osservatore esterno è, come dire, con tutta la prudenza che il caso necessita, sembra che si voglia giocare un carico piuttosto alto, un carico da 90 in questa mediazione. E detto ciò, qua mi taccio, perché naturalmente i pensieri vanno ai familiari dei marittimi, agli armatori, agli stessi marittimi. Evidentemente la speranza che, come spesso, quasi sempre, direi quasi sempre, ha fatto la Farnesina in questi casi, si è mossa con grande perizia e molto spesso, nel 90-99% dei casi, adesso è difficile anche quantificare, insomma le cose sono andate bene ed è la speranza di noi tutti. 349-238-6666 per i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti. Lo ricordo, anche se i primi rispettano e omaggiano assolutamente quello che è il nostro formato, la nostra esigenza, non ammettiamo, lo sapete, commenti razzisti, xenofobi, sessisti o vituperi di qualsiasi genere. Per il resto, liberissimi anche di criticare, perché no, solo le critiche ci faranno crescere i contenuti, la forma di questo programma. Forma che adesso prende una piega diversa, perché la storia che vi raccontiamo sembra quasi un film, ma non è affatto un film. 27 agosto 2020, ore 3:20 del mattino. Mar Mediterraneo orientale, oltre 100 km a sud dalla costa dell'isola di Creta, territorio greco. Sei caccia F-16 della Elleniki Polemiki Aeroporia, l'aeronautica militare greca, decollati pochi minuti prima da una base dei pressi di Chania, entrano nella zona individuata a latitudine 34 gradi 15 minuti 0 secondi nord, longitudine 25 gradi 43 minuti 57 secondi est. I caccia greci vengono affiancati da 6 F-16 della Turk Avva Kutteleri, l'aeronautica militare turca. Ecco cosa comunicano via radio i piloti turchi ai piloti greci. Siete entrati nel teatro di un'esercitazione militare turca, dichiarata con comunicato Navtex. Vi intimiamo di lasciare immediatamente quest'area. Ripeto, vi intimiamo di lasciare immediatamente quest'area. Lasciate immediatamente quest'area, altrimenti verrete abbattuti. I 12 caccia si fronteggiano inquadrandosi a vicenda nei rispettivi mirini. Basterebbe una leggera pressione per abbattere un aereo nemico. I caccia greci abbandonano l'area. Il confronto è durato precisamente 2 minuti e 9 secondi. Alle 3:20 del mattino del 27 agosto 1920, nelle acque del Mediterraneo, si è svolta la più tesa schermaglia tra Grecia e Turchia da molti anni a questa parte. Due minuti e 9 secondi è solo l'ultima di una serie di provocazioni, di mosse e contromosse che Turchia e Grecia hanno messo in campo, o meglio dovrei dire in mare, nel quello che una volta era il Mare Nostrum. Oggi ci chiediamo a chi appartenga davvero il Mediterraneo. L'ultima, dicevo, di una serie di provocazioni, molte le hanno subite i pescatori greci, per esempio in tutte quelle isole che sono antistanti, poche miglia, addirittura 800 metri, un punto dell'isola di Samos. La costa turca si può praticamente toccare con mano. Schermaglie e provocazioni e controprovocazioni per cosa? Beh, sostanzialmente il Mar Mediterraneo è un teatro geopoliticamente molto molto importante, è un crocevia di grandi traffici commerciali, ma soprattutto è un mare molto molto ricco di gas. Le materie prime del Mar Mediterraneo fanno gola a tanti. Quali sono gli attori che competono, ma soprattutto quanto vale il Mediterraneo? Forse questa è la domanda da girare immediatamente a Sissi Bellomo, giornalista del Sole 24 Ore, esperta di materie prime. Sissi, buongiorno, ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano. Sì, buongiorno. Quanto vale il Mediterraneo e soprattutto di che risorse? Però approvo il fatto che tu abbia stressato anche l'aspetto dell'influenza geopolitica sul Mediterraneo, perché le due cose si tengono un po' a braccetto, come in tante altre situazioni, come siamo stati abituati a vedere anche nelle schermaglie con la Russia e nelle tensioni con la Russia. Il gas molto spesso rappresenta lo strumento per affermare un potere che va al di là poi del potere energetico, quindi le cose si intrecciano strettamente. Questo è tanto più vero oggi quanto più il mercato delle materie prime, il mercato del gas in particolare, non ha delle prospettive brillantissime. È sicuramente anche un periodo ciclicamente di ribassi, chi parla di una fine prematura dei combustibili fossili non mi trova d'accordo. Io sarei felice se così fosse, ma non sarà così, e certamente è un periodo congiunturale anche di domanda bassa. Però è vero che c'è una grandissima abbondanza di offerta di gas in tutto il mondo, soprattutto da quando gli Stati Uniti esportano moltissimo GNL, è vero che questa situazione potrebbe protrarsi ancora per molti anni, che quindi non è la lotta disperata per accaparrarsi delle risorse scarse. Transizione energetica o no, di gas ce n'è tanto, ce ne sarà tanto. Detto questo, non voglio sminuire troppo l'importanza delle risorse energetiche, che certamente ci sono e certamente sono state trovate negli ultimi anni, e guarda caso proprio negli ultimi anni si sono riscatenate delle tensioni che però ci sono sempre state e che erano sopite, se vogliamo, l'opposizione tra Turchia e Grecia, la questione di Cipro è una questione che non nasce ieri e non nasce con le scoperte di gas, ovviamente. È vero che adesso tutti gli attori sul campo stanno esacerbando questa opposizione, con il rischio di conflitti combattuti, di conflitti veri con le armi, non soltanto con la proxy del gas, ecco, se vogliamo parlare come parlano gli analisti geopolitici. E soprattutto ci sono molti attori in gioco, e le vicende turche delle prepotenze in qualche modo turche nel Mediterraneo si intrecciano sempre di più anche con le vicende della guerra in Libia, si intrecciano con gli equilibri in Medio Oriente, in un'assenza assordante degli Stati Uniti nell'area, perché gli Stati Uniti sono rimasti molto dietro le quinte, si sono disimpegnati moltissimo, e in una presenza invece sempre più assertiva e sempre più attiva della Francia. Sì. È un discorso che va anche al di là. Torniamo sul gas, se credi. Però assolutamente. Sono convinta che il gas sia uno strumento. Hai fatto bene, hai in qualche modo accarezzato, toccato un punto che sposta il nostro punto di vista. Gas come obiettivo, questo era l'inizio forse di questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, con te scopriamo invece che inesorabilmente, complice la sovrabbondanza statunitense, complice forse, aggiungo io, ma correggimi se sbaglio, il costo di queste esplorazioni marittime, i combustibili fossili che non vanno esattamente di moda negli ultimi tempi, gas, dicevo, che da target, da obiettivo, diventa incredibilmente arma a tutti gli effetti, arma geopolitica. La voce che state ascoltando è quella di Sissi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, esperta di materie prime. Da questo punto di vista è interessante anche notare, Sissi, se vuoi fare una menzione su questo, come vi sia un intrecciarsi di attori statali, ma anche evidentemente di attori strettamente economici. Penso alla nostra Eni, che ha condotto esplorazioni, un po' di ascoltatori stanno giustamente ribadendo le scoperte di Eni nelle acque greco-cipriote, con Erdogan che ci ha sostanzialmente, cito l'ascoltatore, sloggiato con la forza. Ecco, a cosa può portare questa strana commistione, secondo te, di presenza di attori statali e invece attori più strettamente economici, grandi compagnie, grandi imprese? Complica ancora di più la situazione, a un certo punto qualcuno dirà l'ultima parola e quindi il grande dossier del Mediterraneo sarà appannaggio dell'uno o dell'altro attore, quello strettamente economico oppure quello statale? Stiamo parlando di attori economici che sono strettamente legati ed allineati poi con gli stati. L'ENI non si muove per conto suo rispetto al governo italiano, così come Total non si muove per conto suo rispetto a quello francese o l'americana Exxon o Chevron. Su Chevron ci sono delle importanti novità, peraltro, perché molto recentemente la prima grande acquisizione nell'oil and gas in periodo post-Covid è stata fatta dall'americana Chevron, che si è comprata una società che è attiva anche nel Mediterraneo orientale, la Noble. Molti osservatori, molti giornali in giro per il mondo hanno stressato l'aspetto che attraverso Noble Chevron comprasse altre aree di shale oil negli Stati Uniti. Ma in realtà io sono sempre stata convinta che il cuore di questa acquisizione sia stata in realtà la presenza nel Mediterraneo orientale, dove peraltro c'era già anche Exxon, perché in qualche modo si muovono le compagnie, è una specie di valzer in cui non è, secondo me, improprio parlare ma chi conta di più, gli attori economici, gli attori statali. Qui non stiamo parlando della PMI che va a vendere qualche componente, qui stiamo parlando di colossi petroliferi che non hanno mai agito all'insaputa o senza coordinarsi con i propri governi di riferimento. Ecco. Poi vale la pena di riepilogare quello che c'è stato nel Mediterraneo e come Eni sia stata davvero una protagonista assoluta, perché Eni ha scoperto un giacimento enorme, Zohr, di cui probabilmente ormai abbiamo sentito parlare chiunque di noi, in Egitto, e ha ribaltato completamente non solo le sorti del Mediterraneo orientale come bacino energetico, ma le sorti dell'Egitto soprattutto, che era condannato a importare sempre più gas e invece adesso, grazie a Zohr, diventa autosufficiente, riesce addirittura a scambiare con l'estero, a esportare una parte del gas. Ci sono i grandi giacimenti scoperti al largo di Israele, altro gas con cui Israele, altro paese molto dipendente dall'importazione energetica, adesso esporta verso la Giordania, verso la Palestina. Ci sono le scoperte al largo di Cipro che però, guarda caso, non sono state ancora sfruttate. Ci sono esplorazioni che vedono protagonista anche la nostra Eni al largo di Cipro, per l'appunto, dove è stata sloggiata con le navi da guerra. Una nave Saipem che stava esplorando per conto di Eni è stata costretta ad andare via con uno schieramento di navi da guerra dalla Turchia. E Eni ha anche vinto, insieme alla francese Total, dei diritti di esplorazione nella prima gara dichiarata dal Libano in moltissimi anni. Per cui l'ENI è senz'altro protagonista, ma è protagonista anche l'Italia. L'Italia non solo perché si affaccia su questo vaccino, ma perché sempre intrecciandosi al gas, l'Italia è parte per esempio del IFMED Gas Forum, che è diventato recentemente un'organizzazione internazionale, non è soltanto un consesso molto ristretto, certo. È un consesso di nazioni non così ristretto tutto sommato, ma certo, sicuramente che è andato ad escludere la Turchia. Sì. Elemento che ha molto irritato la Turchia. La Turchia si vede esclusa, benché membro della NATO e vicina, associata all'Unione Europea. La Turchia è stata estromessa da qualsiasi consesso internazionale, per cui questa aggressività crescente è per ribadire e riaffermare anche una sua presenza, una sua egemonia, una sua influenza, quantomeno in queste aree del Mediterraneo. E poi, come ti dicevo, si intrecciano molte partite in questa situazione, molte, comprese quelle medio orientali e quelle libiche. Non c'è dubbio, e su queste proveremo a indagare un po' meglio nel proseguo della trasmissione. Intanto grazie mille a Sissi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, esperta, come avete sentito, mettere prime. Grazie per averci anche aver scrostato un po' anche una certa narrativa su quello che è il mondo del gas, il mondo dell'energia, come gli attori economici si muovono in sinergia. I famosi sistemi paese sono anche quelli, sono anche volti anche a stabilire egemonia geopolitica. Grazie mille Sissi Bellomo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Dalla voce di Sissi alla vostra, che arriva via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Purtroppo rimane sempre la solita domanda triste: l'Italia che fa? Attenzione però, dalle parole di Sissi Bellomo emerge una realtà un po' diversa. Peraltro lo stiamo raccontando, io non affretterei l'affermazione un cambio di passo nella politica estera italiana. Però poco ci manca, secondo me. Sono abbastanza ottimista. Sapete quanto sia stato critico negli ultimi mesi rispetto alla proiezione italiana all'estero. Mi sembra che vi siano segnali di cambiamento. Altri messaggi che arrivano, ripeto, al 349-238-6666. Io sto con la Grecia per i metodi di Erdogan, ma nel merito ricordiamo che la Grecia vuole sfruttare le acque a pochi chilometri dalla costa turca sulla base di una piccola isola, l'abbiamo ripetito proprio all'inizio. Poi c'è anche un aspetto prettamente giudiziario, cioè giuridico internazionale, perdonatemi, per cui sostanzialmente la Turchia rifugge il trattato a metà degli anni 80 che va a definire le zone economiche esclusive, si rifà piuttosto alla placca, quella sotterranea, quella sotto l'acqua. E poi soprattutto la Turchia a un certo punto va a stringere gli accordi con al-Sarraj e si crea quel gigantesco corridoio a metà del Mediterraneo che fa tanto indispettire gli altri attori presenti. A proposito di attori presenti, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano anche Alessia Melcangi, insegna storia del Medio Oriente, relazioni internazionali alla Sapienza di Roma e anche non resident senior fellow all'Atlantic Council di Washington. Melcangi, buongiorno e ben ritrovata. Allora, una domanda a mo' di slogan innanzitutto. È cambiato in meglio o in peggio il ruolo dell'Italia negli ultimi anni nel Mediterraneo? Qua uno slogan, poi facciamo una piccola pausa e poi torniamo. Beh, il ruolo dell'Italia essenzialmente è cambiato, o meglio si è modificato nel corso del tempo, adesso sta cercando di riorientarsi soprattutto sulla questione libica ed è quello che un po' tutti speriamo, di poter giocare di nuovo una partita in un senso diciamo efficace, soprattutto in questo periodo. Allora, questo è lo slogan della Melcangi, poi lo riempiamo di contenuti, state con noi, intanto l'informazione finanziaria. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Mentre vi parlo sto gettando un occhio ai network internazionali, stanno trasmettendo le immagini di Emmanuel Macron che ha parlato ad Ajaccio, Med7 se preferite all'italiana, quel gruppo informale che raccoglie i 7 paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. L'Europa deve avere una voce più unita e più chiara dinanzi alla Turchia e questo è l'appello che Emmanuel Macron ha lanciato. Vedremo cos'altro produrrà questo questo meeting, questo summit, perché? Perché la Turchia sta facendo, lo raccontiamo spesso, sicuramente la voce grossa, ma con, nel Mediterraneo ovviamente, ma con Alessia Melkangi, insegna storia del Medio Oriente, esperta in relazioni internazionali e anche non-resident senior fellow all'Atlantic Council di Washington, stiamo provando a esplorare quali sono gli altri attori che esercitano i loro appetiti in quello che una volta era il Mare Nostrum, e in ultima istanza proveremo a rispondere alla domanda: ma di chi è davvero il Mediterraneo quest'oggi? Alessia Melkangi, abbiamo brevemente parlato di Egitto, che è uno dei tuoi punti di interesse, dei punti di forza, perché è un paese che conosci molto molto bene. Sisi Bellomo faceva riferimento al giacimento di Zohr. Ecco, basta quel giacimento di gas, di cui ricordo l'ENI possiede il 50%, a come dire, definire, a tratteggiare e a raccontare il ruolo dell'Egitto nel Mediterraneo, o c'è qualcosa in più? Beh, sicuramente i giacimenti come Zohr, Nur rappresentano adesso un elemento fondamentale di ripresa per l'Egitto, che si candida a diventare appunto un hub energetico, quindi un paese, uno dei principali esportatori. Questo ha ridato vita, linfa, al paese, che cerca di riposizionarsi all'interno del Mediterraneo e in generale nella sua strategia geopolitica, e sta giocando una partita molto importante, come appunto è stato detto precedentemente, anche rispetto a quello che è il quadrante libico, come appunto dicevamo. Sì. E quindi nei confronti della Turchia. L'Egitto ha come dire, tuonato per molti mesi i tamburi di guerra contro la Turchia, di cui teme l'espandersi sia in Libia sia nella regione, ma anche per una questione ideologica. Come sappiamo appunto, l'Islam politico è assolutamente combattuto dall'Egitto, gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, di cui invece si fa promotore Erdogan insieme al Qatar. Tutto questo li contrappone, li pone ovviamente in una posizione contraria, e proprio questo si va a sviluppare nel Mar Mediterraneo e nel territorio libico. Sì. Come si vede questo? Abbiamo detto che la Turchia ha stipulato questo accordo per le zone economiche esclusive con la Libia a dicembre, che se riguardano la zona marittima, ma anche un supporto militare che ha nei fatti come dire, modificato la posizione libica a favore del governo di accordo nazionale. Esatto, e per esempio vediamo ad agosto come l'Egitto ha subito stipulato invece con la Grecia, ha firmato un accordo per delimitare altre zone che vanno a interagire, a interferire con quelle turche. Che vuol dire questo? Che l'Egitto è già da tempo che ha creato una politica e una strategia per isolare e contenere la Turchia, e questo come? Grazie appunto anche agli altri paesi riverischi, quindi la Grecia, Cipro, Israele, quindi questa è la creazione per esempio del Gas Forum, questo appunto, questo cartello che include tutti i paesi per la gestione del gas, ma anche con come dire, una serie di accordi bilaterali, tutto questo appunto per cercare di isolare la Turchia, e la Turchia ovviamente non è rimasta con le mani in mano. Assolutamente, la voce che state ascoltando è quella di Alessia Melkangi, docente della Sapienza, esperta di relazioni internazionali, in particolare ha concentrato parte dei suoi studi e delle sue ricerche proprio sull'Egitto. Con lei stiamo tratteggiando quello, però visto che Alessia hai menzionato il ruolo turco, ti faccio sentire la voce di Kagri Özdemir, è un giornalista Deutsche Welle, lui è turco, conosce molto bene quelle che sono le dinamiche della proiezione di Ankara all'estero. Sostanzialmente la tesi del collega turco è che la politica estera della Turchia nel Mediterraneo orientale sta seguendo un approccio tradizionale. Che cosa vuol dire? Sentite. La posizione della Turchia sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale sono chiari da decenni. Dato che la maggior parte delle isole dell'Egeo appartengono alla Grecia, la Turchia non ha siglato la Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, che avrebbe reso l'intero mare Egeo completamente greco. Ankara ha teso la mano per negoziare con la Grecia quello che la Turchia definisce un metodo equo per definire le acque territoriali, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, che è al centro delle esplorazioni alla ricerca di idrocarburi nella regione. Questa stessa disputa frontaliera ha provocato le schermaglie militari tra le due nazioni nell'Egeo. Schermaglie che in passato hanno anche portato all'abbattimento di aerei e alla morte di alcuni piloti. Nel 1996, Grecia e Turchia si sono trovate di nuovo sull'orlo di una guerra a causa di un'isoletta che si chiama Kardak in turco e Imia in greco. Questa isoletta si trova a soli 7 km al largo della costa turca e a oltre 1000 km dalla terraferma greca. ma siccome è molto vicina alle isole dell'Egeo, è rivendicata dalla Grecia. Fortunatamente quella crisi non sfociò mai in una guerra a causa dell'intervento americano. Da questo punto di vista, il governo di Erdogan sta seguendo la tradizionale politica estera adottata nelle controversie marittime con Grecia e Cipro, e io leggerei la situazione in questo contesto. With Greece and Cyprus, and I would read the situation in the same vein. Questa è la voce di un collega, Kagri Özdemir, Deutsche Welle, il servizio della televisione tedesca in turco. I vostri messaggi al 349-238-6666, Panos da Torino, non c'entra niente il gas, scrive l'ascoltatore, la Turchia vuole controllare il Mediterraneo, vuole avere il controllo sulle isole del Dodecaneso, Erdogan vuole essere il nuovo leader dei musulmani e l'Italia è alleata con la Turchia, perché? Così si chiede un ascoltatore. Un altro ascoltatore che è Luca, vediamo, due o tre messaggi, uno di seguito all'altro, tutti interessanti. Vorrei mestamente ricordare che c'era chi appoggiava l'ingresso della Turchia in Europa, il primo. Il secondo, il ruolo dell'Italia ovunque nel mondo è pari a zero, non abbiamo forze armate paragonabili a quelle turche né la determinazione di quelle greche, ecco perché Leni è stata presa a calci senza reazioni. E vorrei ricordare quali capitali abbiamo in Eni. Così Luca. Il terzo messaggio: oggi il Mediterraneo di chi se lo prende, di questo passo attraverseremo le acque territoriali turche per andare da Genova a Trieste. Insomma, al di là dei paradossi, Luca stressa un paio di punti. Il primo, la debolezza della politica estera italiana, che io francamente in tutta onestà nelle ultime settimane sto iniziando a contestare. Sull'ingresso della Turchia in Europa, sinteticamente, c'è chi dice, attenzione, riprendiamola nell'alveo materno, così sarà più controllabile. Ci faremo fare meno ricatti, potremo magari iniziare a discutere di diritti umani, di giornalisti imprigionati, di questa islamizzazione così pesante del paese. C'è chi dice invece no, ha preso una piega troppo diversa, troppo lontana, di Europa non se ne deve parlare. È Ankara che ha richiesto a gran voce che si riaprano i colloqui, e d'altra parte è membro della NATO, quindi ci sono evidentemente delle nevralgie che vanno curate, su questo non c'è dubbio. Torno però da Alessia Melcangi, prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, con l'ultima domanda, e su questa spero avrai una risposta molto netta e molto tranciana. Abbiamo iniziato questa puntata raccontando un sferato incidente aereo, peraltro chiedo venia del nostro errore, a un certo punto si diceva fine marzo 1920, no, era fine marzo 2020 evidentemente. È vero che la tensione greco-turca è piuttosto datata, ma quei due jet erano ipermoderni ed era lo scontro, il quasi scontro risaliva appunto alcuni giorni fa. Dicevo, si rischia, Alessia Melcangi, che tutto questo caos, queste provocazioni, questi appetiti, questo utilizzare anche armi diverse che non siano i jet e le fregate, sfoci in un conflitto aperto, secondo te, fra Grecia e Turchia? Io credo di no, perché la guerra non è nell'interesse di nessuno. Immagino che potrebbero intervenire subito gli organismi internazionali, penso all'Europa, ma penso soprattutto alla NATO, che è un'alleanza importante che ha assicurato la protezione e la sicurezza dell'Europa occidentale, e che adesso si trova ovviamente in cattive acque, poiché il confronto tra Turchia e Grecia contrappone due paesi membri. Ma tuttavia la necessità è quella di evitare assolutamente lo scontro, e credo che in questo caso proprio il contesto migliore per risolvere la disputa possa essere la NATO, dove vi sono appunto dei meccanismi di dialogo rodati e importanti. Sì. Quindi la risposta definitiva, io credo proprio che non si arrivi a questo scontro, benché ci stiamo veramente molto avvicinando. Sì, e poi il rischio, Alessia Melcangi, è che quando si inizia a giocare in quel modo lì, con quelle scene alla Top Gun, e quando gli aerei sono così vicini, l'errore umano può capitare, può essere facile, a quel punto bisogna stare attenti, no? Quando si alza così tanto il livello della tensione, a un certo punto la situazione potrebbe scappare di mano. Naturalmente ci auguriamo che non accada, e naturalmente io ringrazio tantissimo Alessia Melcangi, insegna storia del Medio Oriente, esperta in relazioni internazionali, Sapienza di Roma, non resident, senior fellow alla Tantric Council di Washington. Alessia, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio. Torno ai vostri messaggi, tanti, al 349-238-6666, alcuni particolarmente accesi, segno che il dossier turco scalda gli animi e anche le teste, perché è vero che c'è qualche messaggio particolarmente livoroso nei confronti del sultano, è anche vero che molti di voi si lanciano in una serie di analisi e osservazioni che per noi sono linfa vitale, lo ripeto sempre, questo programma si anima anche grazie alle vostre osservazioni. Italia presente nel Mediterraneo solo con Eni, manca tutto il resto e subisce la soft war di tutti gli altri, Francia compresa, con l'incentivazione dell'immigrazione irregolare, Così Francesco, anche questo messaggio particolarmente impietoso nei confronti delle ultime mosse, storicamente, non questo governo, a mio parere, della Farnesina, anche se, ripeto, sarei un po' più morbido sugli ultimi tempi. Qualcun altro che ci va giù pesante: cacciare il turco dalla NATO, strangolare l'economia turca, sanzioni. Attenzione, perché l'Italia è anche un partner commerciale della Turchia, bisogna... ci sono tali e tanti interessi e attori e le connessioni. Ormai fra pochissimo dedicheremo una puntata in Nessun Luogo Lontano proprio al concetto di connettografia. Sto traducendo dall'inglese, è un grandissimo studioso indiano. Non ha più senso parlare di stati, di confini, sono le connessioni che creano i rapporti diplomatici, sono le pipelines, sono questi gasdotti, sono gli oleodotti, sono le rotte commerciali. Il mondo è cambiato anche in questo senso ed è un punto di vista molto molto interessante. Possiamo sì cacciare Ankara dalla NATO, per carità, possiamo anche strangolare l'economia turca, ma tutte le imprese italiane che lavorano lì, quindi... sono ricette forse un po' tranchan. Sarò tranchan anche nel fare una cosa: viabilità. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori. Di chi è il Mar Mediterraneo? Quali sono gli attori che affollano questo specchio di mare? Una volta lo chiamavamo Mare Nostrum e adesso Turchia, Grecia, Egitto, Libia, Francia, Italia, appunto. Tanti attori, ci sono quelli strettamente statali, evidentemente li ho appena citati, poi però ci sono i grandi attori economici che molto spesso vengono accompagnati dai rispettivi sistemi paesi. C'è Eni, c'è Total, c'è Chevron e così via. Torno, ma brevemente, perché non voglio, come dire, fare un dialogo uno a uno con l'ascoltatore di prima. Diceva cacciare il turco dalla NATO e strangolare l'economia. Io rispondevo attenzione, però, perché l'economia italiana è connessa a quella turca, quindi e la risposta è pazienza: se si vuole avere la botte piena e la moglie ubriaca, si rimane dei quelli che se la fanno addosso, mettiamola così, insomma, dei timorosi senza dignità, così questo ascoltatore. Io ricordo però che l'Italia è il quarto partner commerciale della Turchia, con un volume d'affari di 19,72 miliardi di dollari, molto più di tutti gli altri paesi mediterranei con i quali fa affari messi insieme. Sto pensando a Egitto, sto pensando a Grecia e sto pensando a Cipro. Se secondo lei mantenere quei rapporti economici, lavoratori anche italiani, imprese italiane, significa avere la botte piena e la moglie ubriaca, forse dobbiamo ridefinire anche un po' tutta la grammatica di quella che è la geopolitica e l'economia. Ma non voglio fare assolutamente polemica, voglio invece farvi sentire una voce molto più interessante della mia, che è quella del collega turco. Lo ricorda Kagri Özdemir, giornalista di Deutsche Welle, la TV, il network tedesco, fa servizi in varie lunghe lingue, tra cui il turco. Torniamo al tema del conflitto, della guerra. È possibile che scoppi un conflitto a tutti gli effetti, ed è più facile che scoppi in queste ore, in queste settimane, in questi giorni? Sentite cosa ne pensa, naturalmente sto parlando di Grecia e Turchia, cosa ne pensa il collega turco. Non credo che l'obiettivo di Erdogan sia un confronto militare, anche se non mi sentirei di escludere completamente questa opzione. Ma anche se dovesse succedere, non credo che la situazione degenererebbe in un conflitto su larga scala. Non può proprio succedere. La Turchia e la Grecia sono entrambe membri della NATO. Sono entrambe governate da decenni da governi stabili e legittimi. E c'è molto in gioco per l'Europa e per il mondo più in generale se questi due paesi dovessero affrontarsi in un conflitto militare. C'è un detto divertente, ma molto efficace, che circola negli ambienti diplomatici su questa questione. Una guerra tra Turchia e Grecia può durare al massimo un'ora, perché subito dopo interviene la comunità internazionale a fermarla. Arriviamo poi all'aspetto più drammatico di queste tensioni, che vale per entrambe le parti. Sia Erdogan che Mitsotakis giocano queste carte per rivolgersi al fronte interno. La Grecia soffre di governi instabili e crisi economica da quasi un decennio. La Turchia di Erdogan accusa una perdita di popolarità e teme di perdere la sua influenza. Il nazionalismo è uno strumento molto semplice da sfruttare. E anche se voglio credere che esista un passato e un bagaglio in comune tra le due nazioni, considerando il passato di entrambi i paesi, è molto facile per entrambi i governi soffiare sul fuoco in maniera controllata. Queste le parole del collega turco di Deutsche Welle. C'è qualcuno che torna sul tema Turchia in Europa sì o no? In Europa fa quel che vuole Orban, che ha un paesello, figuriamoci cosa potrebbe fare Erdogan. E così un ascoltatore con un po' di emoticon che quasi si tappano la bocca in segno di autocensura. Cambiamo voce, cambiamo punto di vista. Lo facciamo con Yasmin Ergin, giornalista freelance, collabora fra gli altri con il canale televisivo tedesco ARD. La domanda per lei è stata questa: Erdogan sta mettendo in pratica, come abbiamo spesso raccontato, una politica estera fortemente aggressiva. I fronti sono tanti, abbiamo detto la Grecia, la Siria, la Libia. Quali ripercussioni però avrà questa linea politica così muscolare all'esterno, ma in termini di politica interna? Perché sono, come dire, due facce della stessa medaglia. Sentite cosa dice. L'aggressività di Erdogan in politica estera è stata ed è tuttora molto pericolosa e potenzialmente destabilizzante per l'intera regione. Questo perché le mosse della Turchia sono sempre imprevedibili e irregolari. Non è mai del tutto chiaro quale sia la strategia di Erdogan e cosa spera di ottenere. Bisogna considerare che c'è sempre un insieme di diverse motivazioni dietro ogni scelta, come per esempio il voler distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni, giocando molto con i sentimenti nazionalisti della sua base elettorale. Allo stesso tempo, però, Erdogan ha la seria ambizione di voler essere considerato un potente statista a livello internazionale. Questo desiderio lo spinge a mostrare i muscoli ogni volta che ne ha la possibilità, non esitando a destabilizzare l'Unione Europea o la NATO, come nel caso delle tensioni con un altro membro dell'alleanza. Come ho detto, una delle ragioni principali che spinge Erdogan a impegnarsi in diversi teatri, come in Libia, in Siria e ora nel Mediterraneo orientale, è voler essere considerato un leader forte anche in patria, dato che la Turchia negli ultimi anni sta soffrendo un'importante crisi finanziaria e, secondo i sondaggi, la sua popolarità è in forte calo. Non è nemmeno chiaro se riuscirà a vincere le prossime elezioni, ma ha ancora abbastanza tempo per cambiare radicalmente la situazione. D'altronde, in precedenza, ha sempre dimostrato di essere molto popolare tra i turchi, specialmente tra gli elettori nazionalisti. Questo approccio aggressivo in politica estera ha sempre giovato la sua popolarità ed è per questo che sta mettendo in campo la stessa strategia, anche se questo comporta il rischio di un conflitto internazionale che può destabilizzare l'intera regione, l'Unione Europea e la NATO. La voce era quella di Yasmin Ergin, giornalista freelance, fra l'altro collabora con l'importante televisione tedesca ARD. Lei, collega di Deutsche Welle, hanno arricchito in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, in cui stiamo cercando di stabilire di chi sia il Mediterraneo quest'oggi. Vi anticipo che la risposta sostanzialmente non c'è, forse deludente. I vostri messaggi non lo sono affatto. Un ascoltatore: c'è una sola cosa peggiore di un Erdogan turbolento nella NATO, un Erdogan fuori dalla NATO. Una Turchia trasformata in portaerei inaffondabile russa metterebbe a rischio i traffici da e per Suez. Così un attento ascoltatore. Mi tocca invece rispondere, ma spero di non scadere nella polemica, per cui gli altri ascoltatori mi perdoneranno, con un altro ascoltatore che su Facebook scrive: il programma sarebbe interessante, qua già vedo un moto di giubilo da parte della squadra e della Dal Vetro. Peccato che lei si spenda così tanto per difendere l'operato dell'attuale governo nelle politiche estere, semplicemente inesistenti, abbia un poco di coraggio e cerchi di essere un po' meno filo governativo e più cronista almeno qualche volta. Io gentile ascoltatore, sono francamente 11 mesi, quelli della scorsa stagione, che abbiamo sottolineato tutte le mancanze dell'assenza di politica estera del governo italiano, nonché dell'Unione Europea nel suo complesso. Le volte invece in cui, a nostra modestissima opinione, vi sono dei risultati e dei, anche seppur parziali, successi, ci preme sottolinearlo proprio per omaggiare lo spirito da cronista che spero alberghi in noi tutti e in tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Chiudo con gli ultimi messaggi che stanno arrivando continuamente al 349-238-6666. C'è qualcuno che scrive: l'unica vera guerra di Erdogan è contro la laicità voluta da Ataturk, e in quanto a laicità in Italia dovremmo solo vergognarci. Vabbè, al di là dell'aspetto prettamente italiano che non commento, ma non per, come dire, una ritrosia, è semplicemente un programma di esteri. Ci sono molti analisti che stressano molto questo punto. Io ricordo che abbiamo raccontato la dipartita temporanea di Bashagha, giro sempre lungo, potente ministro dell'interno libico, viene fatto fuori temporaneamente dal Sarraj, proprio quella Libia, quel pezzo di Libia che è sostenuta dalla Turchia. Turchia grande sponsor dei Fratelli Musulmani, Bashagha è un grande uomo dei Fratelli Musulmani e non c'è dubbio che quell'aspetto di quell'Islam così fortemente politico sia una formidabile arma nelle mani di Erdogan, appunto. Un'altra formidabile arma è quel bottoncino già pronto e c'è il polpastrello che sta per pigiarlo, lo fa Roberta Frisani. You're fired. You're fired. You're fired. E quindi ringraziamenti a tutti voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.